Hai tuo a 189 euro al mese. TAEG 773 con servizi inclusi e 3 anni senza pensieri. Info su Nissan.it. Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in you, baby. Il test della Sicilia si va alle urne tra le polemiche, spoglio il giorno dopo, si rischiano brogli, il Corriere della Sera titolo di prima pagina, poi a fianco c'è la foto di Trump e Melania che partono per il Giappone. Risponde Repubblica con Sicilia, polemica sul voto, il PD blinda Renzi premier, non decidono i ministri. Oggi urne aperte, Minniti più controlli contro i brogli, e di fianco invece una foto su i barconi, si riapre la rotta dalla Libia in 20.000 pronti a imbarcarsi. E sulla stampa c'è anche sbarchi dirottati, la Sicilia al voto con un caso migranti, l'emergenza è sparita dal dibattito. E poi ancora c'è il caso Tugliani, Dubai, i giornalisti e la fuga, così hanno arrestato Tugliani, eh? Ma la stampa in realtà apre con un titolone per una cosa che fanno, ed è lodevole, di andare a ricordare le leggi che invece sparite. Il Parlamento, esatto, le sparite che il Parlamento si è dimenticato, e la stampa titola il Parlamento dimentica la legge contro l'omofobia, è bloccata in Senato da 4 anni, le associazioni gay denuncia in costante aumento. E allora questi sono i titoli principali dei giornali di oggi, ma questa non è una rassegna stampa, andiamo a caccia di buone notizie tra poco. Buongiorno da Alessio Maurizio. E buongiorno da Carlo Gabardini, buona domenica. Oh, allora, non so se sia una buona notizia, intercettazioni per i giornalisti, spunta e le carcere fino a 3 anni, e questo è sulla prima pagina di Repubblica. Lo dici perché sei giornalista, sì. Io non essendo giornalista gli rischio uguale, cioè bisogna essere dell'albo per rischiare 3 anni di carcere se si pubblicano intercettazioni, giusto? Sì, sì. Non è per i commenti, non è per le opinioni, no inizio a aver paura, adesso è il mio maestro, giustamente. Allora, qua non è che abbiamo molti titoli, però uno forse ce l'abbiamo di supertitoli, è questo qua. Perché, vabbè, non è male, c'è la foto, bisogna spiegarla, c'è la foto sul Manifesto, naturalmente sono sempre i nostri idoli. Certo. La foto di Renzi e Micari, ho detto candidato, elezioni, ho infranto il silenzio elettorale, vabbè, quello lì, e c'è scritto sotto un ponte, questo è il titolo, perché non andrà... come sperano, forse, non lo so. Ah. Comunque, ecco. Tu hai altri supertitoli? Anche se vogliamo ricordare che ultimamente è Libero che ha vinto questa classifica, perché non sempre il Manifesto. No, secondo me io non ho un supertitolo, ma ho forse un pezzo di super notizia, che è la notizia di cui parlavi prima, di Tugliani preso, e che è su tutti i giornali. Sì. Perché è abbastanza buffo. Pare che lui sia arrivato a Dubai e si sia lamentato con la polizia, dicendo: ma qua è pieno di giornalisti, ma è pazzesco. E loro gli hanno detto: ma i giornalisti sono qua perché noi la stiamo per arrestare, praticamente. Sì. E infatti l'hanno arrestato perché si sono accorti che c'era un mandato internazionale di cattura, perché è da marzo che è latitante. Da cui un altro super titolo, se vogliamo, sulla prima pagina di Repubblica: il giovine Tugliani si arrestò da solo. Esatto, è un super titolino, direi. È un super titolino. E sempre su questa notizia, il giornale fa un gioco di parole: preso Tugliani, il cognato di Fini ricercato per riciclaggio. Sapete che era ricercato per i suoi rapporti anche con magnate, insomma, il re delle slot, Francesco Corallo. E allora il giornale scrive: game over. Anche questa. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo, cerchiamo anche un personaggio della settimana, tra poco, certo, rientriamo domenica dopo il traffico naturalmente, quindi però il primo indizio ve lo diamo subito. Vai. Si tratta di un personaggio che è arrivato in ritardo, quindi cercate una notizia degli ultimi 7 giorni, un personaggio arrivato in ritardo, il primo che indovina anche oggi si porta a casa i biglietti della splendida mostra Egitto al MUDEC di Milano. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, oggi parleremo più avanti, parleremo anche di un tema, insomma, che ci sta a cuore, quello dei rifiuti, che da problema stanno diventando una opportunità con l'economia circolare, lo sapete, siamo sempre lì a parlarne. C'è l'ultimo rapporto ISPRA, luci e ombre, come si dice in questi casi, perché i rifiuti sono tornati a crescere, la quota complessiva, però si dice che è perché l'economia che tira, quindi, è una buona notizia. Potrebbe anche essere una buona notizia, però c'è il tema, poi l'approfondiremo se è davvero una buona notizia, c'è il tema dei rifiuti abbandonati. Quella non è mai una buona notizia. Non è mai una buona notizia. Perché se i rifiuti aumentano, come dicevi giustamente tu, ma sono delle risorse, basta aumentare il riciclo dei rifiuti e non dovrebbero esserci problemi. Ma se me li metti tra gli ulivi in campagna non va bene. E allora, cari ascoltatori, anche oggi il fact checking lo facciamo così, vi nominiamo controllori dei fatti. E allora raccontateci se nel vostro comune accade che ci siano rifiuti, che tipo di rifiuti abbandonati nelle strade di campagna, nelle piazzole, nelle aree di sosta. Accettiamo anche foto? Accettiamo, te lo sto chiedendo, Alessio, perché è molto rischioso. Sì. Poi dopo arrivano foto di cose che ti fanno solamente, che ti rovinano la domenica. Cavolare. Insomma, esatto. Però aiutateci a sconfiggere questa cosa vigliacca e gravissima, imperdonabile, dei rifiuti abbandonati in giro qua e là. 800 24 00 24. Allora questa non è una rassegna non stampa, è una, diciamo, rassegna stampa, perché noi in realtà cerchiamo delle buone notizie, veniamo sempre prima e ne troviamo sempre meno, stavo per dire, ma in realtà no, perché ci sono. Io ho una cattiva notizia per te, Carlo. Vai. Perché il tuo show su cui stai lavorando, che è quello di Mika. Sì, signore, Casa Mika. Martedì prossimo se la dovrà vedere. È la controprogrammazione. C'era la partita. Siamo questa sempre volta messi male, perché martedì scorso, esatto, abbiamo la partita e questo martedì invece abbiamo lo scontro Renzi Di Maio. Tra l'altro a me interessa moltissimo, quindi lo guarderò. Vabbè, io lo show di Casa Mika scrivendolo già l'ho visto. Lo sai già. Allora, scrive il Corriere: Renzi Di Maio, il duello andrà sulla 7. Questa è la notizia. Gli staff negoziano sulla presenza del pubblico in studio. Intanto è stata interessante anche quella battaglia lì, perché in realtà giustamente la Rai rivendicava essendo la televisione di Stato, ci mancherebbe altro, quindi anche lì è stato un po' che quelli del Movimento 5 Stelle preferiscono Floris piuttosto che a Vespa. Infatti è andata a finire scusami così. Non volevo no, è proprio questo, il PD voleva la Rai, il Movimento 5 Stelle la 7, alla fine dicono accettiamo la sfida, cavallerescamente forse si può dire. Sì, certo che si può dire. E poi ci sono i consigli dei due così strateghi di questo possibile duello TV per Renzi: Michele Ansaldi, non so quanto possa essere uno stratega, il deputato PD Commissione Vigilanza Rai, quello che interviene sempre sulla Rai, che certo dice Matteo sia didattico e resti calmo. Invece De Masi è interessante questo, perché di solito la didattica in televisione non è che funzioni proprio tantissimo, ma comunque De Masi invece consiglia a Di Maio: Luigi mantenga il suo distacco. E va bene. Allora, invece scusami, ti leggo che prima non l'abbiamo letto, del Fatto Quotidiano, la prima pagina, che dice: banche, Renzi e Casini si fanno l'indagine tête à tête in privato. E se in un titolo diverso, ovviamente anche Sicilia, le pagine gialle degli impresentabili sulle elezioni in Sicilia. E su questa notizia il Giornale titola: Renzi scappa in banca, cosa succede? Vediamo il Fatto Quotidiano brevemente. È successo che Renzi ha incontrato il presidente della commissione sulla questione delle banche, Casini, a Firenze, una chiacchierata che però non è sfuggita ai giornalisti, anzi secondo i malpensanti è stata fatta a porte chiuse, ma volutamente avvertendo i giornalisti per far sapere a Visco che, scrive il Fatto Quotidiano, Visco associa che l'attacco dei renziani a queste, ai vertici del sistema bancario non è finito. Tutti i loro errori, su cui anche il governo Renzi tacque complice e convincente, ora però saranno messi in piazza, così scrive il Fatto Quotidiano. Però, eccola, io ce l'ho una buona notizia. Ragazzi, ma questa è una notiziona, questa è una notiziona che è sfuggita, devo dire, ai più. Repubblica ce l'ha all'interno, a pagina 14, tutta la questione dei cambiamenti climatici, tutta la questione dell'accordo sul clima, a un anno quasi dagli accordi di Parigi. Sapete che gli unici a non averlo firmato per ora sono la Siria, lo abbiamo ricordato anche ieri, e gli Stati Uniti di Trump. Ebbene, Trump tace e acconsente, il clima è davvero cambiato, la Casa Bianca è costretta ad accettare il rapporto dell'Agenzia sull'Ambiente. C'è l'ultimo rapporto della quarta Agenzia sull'Ambiente americana, che si è occupata recentemente dei cambiamenti climatici in America, il Fourth National Climate Assessment, che è molto chiaro, dice l'impatto umano sui cambiamenti climatici, esatto, c'è, è innegabile, dobbiamo cambiare rotta. Cioè la colpa e la responsabilità è nostra, non è di nostra, altri, che diciamo, nega tutto ciò che sostiene Trump, che dice non è, esatto, nega negazionismo. E questa volta la Casa Bianca ha approvato questo rapporto e non era accaduto in passato, quindi che ci sia una svolta forse green. La Casa Bianca per fortuna agisce anche oltre Trump con la logica. Invece un'altra buona notizia scovata sempre anche questa su Repubblica: Mattia Barbarossa è un ragazzino di 16 anni di Napoli che sta per andare negli Stati Uniti perché lui sogna lo spazio e vivrà in condizioni estreme simulando una missione sul pianeta rosso. Ma che cosa è successo? A marzo ha vinto un biglietto per spedire un suo esperimento scientifico sulla Luna e invece adesso a 16 anni sta già pensando a cosa mettere in valigia per andare su Marte. Beato lui. Sarà un viaggio virtuale ma equipaggiato con tuta e casco come un vero astronauta. Trascorrerà 2 settimane assieme ad altri 6 pionieri nella Mars Desert Research Station, una stazione della Mars Society nel cuore dello Utah, dove si vive come se si fosse su Marte. E gli facciamo i nostri complimenti e l'in bocca al lupo. Tocca metterlo in collegamento con Temporelli. Sarebbe bellissimo. Qualche suggerimento. Giusto. Io ho un'altra ipotetica buona notizia. Si potrà fare, punto di domanda, l'Agenzia del Farmaco a Milano. Che succede? Succede che oggi si apre il G7 della salute proprio a Milano e allora il Corriere della Sera scrive: la lotteria dell'EMA entra nella fase finale, meno 15 giorni al voto del 20 novembre, quando l'Unione Europea deciderà in quale città dovrà traslocare l'Agenzia del Farmaco. Milano si prepara alla battaglia e non è un caso che il governo l'ha indicata per ospitare il G7 della salute. Staremo a vedere. C'è una notizia di cui si è parlato molto negli ultimi giorni, che è quella dell'accompagnamento a scuola degli under 14. E allora noi non potevamo non occuparci di questo con l'Alex Corlazzoli, il nostro maestro, che ci racconta la scuola buona, la scuola buona. E allora sentite qual è la piccola storia che ci racconta il nostro maestro. Ciao Carlo, ciao Alessio, la scuola buona di questa settimana è una scuola in relazione con il territorio, una scuola che ha dei legami con il paese, e siamo nel paese di Caponago, in provincia di un piccolo paese in provincia di Monza e Brianza, dove pensate un po' a dare una mano ai bambini che escono da scuola e prendono il loro pedibus. Ci sono i negozi, hanno infatti inventato il negozio amico del pedibus. Piove, hai bisogno di un ombrello, di un riparo, devi chiamare urgentemente la mamma o il papà, hai bisogno di un bicchiere d'acqua, forse semplicemente hai bisogno di servizi igienici, ecco, puoi entrare nel negozio e ci sono degli amici delle scuole, degli amici dei bambini che ti danno una mano, una risposta alla paura di cui si parla molto in questi giorni, la danno in queste scuole, in questo comune di Caponago. Possibile farlo dappertutto. Infatti si fa in molte città. Si fa non solo a Caponago. Ed è bello anche perché deve essere divertente la mattina, iniziare la giornata così. Col pedibus. Allora, 800 24 00 24. Vi ricordo che stiamo cercando un personaggio della settimana che è arrivato in ritardo. Quindi cercate qualcuno che sia... È giusto che tardino anche le telefonate, quindi, no? È arrivato in ritardo. Una notizia degli ultimi 7 giorni che riguardi proprio questo. Ma siccome, lo diciamo sempre, questa non è una rassegna stampa normale, ma andiamo a caccia di buone notizie, allora non possiamo non raccontarvi le 5 migliori buone notizie della settimana. Si può fare, inizia dalla quinta posizione con questa piccola notizia: Apple abbassa la luminosità dello store di Chicago per salvare la vita agli uccelli migratori. Accade che Apple era stata avvisata della scoperta di diversi uccelli morti intorno al nuovo Apple Store di Chicago, che aveva delle luci abbaglianti giorno e notte. Allora sono corsi ai ripari, hanno abbassato un po' le luci, è giusto. Poi pensa anche di notte quante luci inutili che ci sono, anche al di là degli uccelli si possono salvare morti, sì. Così risparmiare un po' di energia, perché comunque poi l'energia o viene prodotta col petrolio, ma adesso non entriamo nella riscopriamo questione. Riscopriamo il fascino della notte. Al quarto posto una notizia che viene da Reggio Emilia: un nuovo servizio sul web. Hai perso il caro estinto, lo ritrovi sul web. Che detto così sembra una battuta, in realtà è la possibilità con un click di localizzare le tombe nei cimiteri cittadini, nei cimiteri di Reggio Emilia. Ho letto tra l'altro che è incredibile perché il database di questi cimiteri conta 99.000 defunti. Sembra, ripeto, una battuta o quasi irrispettoso, ma in realtà molto spesso, soprattutto andando indietro nel tempo, uno si chiede: ma quel parente di il cui trisavolo. Esatto, di il cui nonno. Si parla sempre, dove è sepolto, oppure è stato cremato? E quindi con questa app ci è sembrato un'ottima idea, un'ottima iniziativa per aiutare chi sta cercando i morti. Terzo posto, siamo sul podio, abbiamo detto che parleremo di rifiuti, allora questa notizia viene da Palermo, dove per la prima volta i rifiuti ingombranti legali, tenetevi forti, superano quelli illegali, perché fino ad ora era sempre successo il contrario. Invece, stando agli ultimi dati, sono stati recuperati 23.974 ingombranti con i metodi tradizionali, quelli della raccolta sotto casa la mattina presto, oppure portati alle isole ecologiche, quindi il 70% del totale contro un 30% di rifiuti abbandonati che persistono, ahimè. E quindi vi rinnovo l'invito, ascoltatori, controllori dei fatti, raccontateci se nel vostro comune accade questa cosa vigliacca di abbandonare i rifiuti per strada. E non buttate i cotton fioc nel cesso, ne abbiamo parlato ieri, ma ormai l'ho imparato. Al secondo posto, di solito per noi quando qualcuno finisce in galera non è mai una buona notizia, ma in questo caso ci sembra una buona notizia più che tutto perché è indice di qualcosa che andrebbe fatto e che si fa troppo poco. 7 anni di carcere a uno scafista tunisino, è la prima condanna in Italia. Quindi diciamo il pezzo di cattiva notizia è che è la prima condanna in Italia, perché va perseguito, è un crimine del quale ci occupiamo quotidianamente ed è orribile. Per la prima volta uno scafista che aveva trasportato decine di extracomunitari in territorio europeo a bordo di un'imbarcazione fantasma è stato condannato. E io al primo posto, cioè un'altra prima volta, però lo scenario è completamente diverso. Disney Channel, per la prima volta, una trama gay in una serie TV per ragazzi. Ebbene sì, la serie si chiama Andy Mack, è giunta alla seconda stagione. Io non l'ho mai vista, si pronuncia così, Andy Mack, sì. Non l'ho vista neanch'io. Forse è un po' presto, c'ha 6 anni. La seconda stagione negli Stati Uniti è cominciata in questi giorni. E all'interno c'è insomma un'amicizia gay. Perché è una buona notizia? Perché bisogna che queste cose arrivino anche nelle fiction, anche nei film, perché fanno parte della vita reale, altrimenti i bambini guardano la televisione e vedono cose irreali, perché che sono le cose che non accadono nella loro vita. E ce n'è di fiction. Ricordiamo qua la notizia: il fatto che sia Disney Channel, ma ovviamente di serie con tematiche omosessuali ce n'è. Ciao Alessio, ciao Carlo, sono Massimo. Anno 2027, insomma sono a circa 10 anni da voi. Notizia bellissima: oggi esce sul mercato un nuovo prodotto incredibile. Si tratta, probabilmente vi ricordate, quel vecchio lavoro, almeno da voi è ancora in voga, quello dello scultatore di formaggi, quell'omino della bassa padana che picchiando col martelletto sui formaggi capiva attraverso il suo sofisticatissimo orecchio se la forma fosse o meno stagionata. Ecco, oggi grazie all'intelligenza artificiale e naturalmente alla tecnologia, il lavoro dell'ascoltatore viene sostituito da un'intelligenza artificiale, appunto. La cosa incredibile è che è una sorta di Shazam di formaggi, e la buona notizia è che questa esperienza tipicamente italiana e geograficamente italiana diventa internazionale. Oggi c'è un'app che sta andando per la maggiore nel 2027, che permette a chiunque nel mondo di utilizzare esattamente la stessa tecnologia per scoprire se il proprio formaggio, in qualunque tipo di geografia, è stagionato o meno. La seconda buona notizia è che i mangiatori di formaggio potranno pregustare la forma e il gusto del formaggio ascoltando un file audio, una vera e propria firma musicale del formaggio. Insomma, le notizie al futuro sono sempre buone, come il formaggio. Naturalmente io vi richiamo dal futuro per altre buone notizie. Ciao! No, io questa volta sono senza parole. Secondo me Massimo Temporelli ha mangiato troppo formaggio. Ma è una strana questa cosa che succederà nel futuro, hai capito? È strana, ma in realtà è lo Shazam del formaggio. Cioè, metti il telefonino e ti dice se il formaggio è stagionato o meno e che cosa è accaduto. È bello comunque che si parte in realtà da un lavoro che esisteva, cioè quello che ascolta i formaggi appunto con il proprio strumento. È semplicemente il fatto di averlo messo in un'app. Esatto. Allora andiamo all'800 24 00 24 prima di andare in pubblicità con Bruno che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Vai Bruno. Buongiorno, sono Bruno, chiamo da Schio in provincia di Vicenza. Sì. Buongiorno. Dici tutto. Allora, il personaggio in questione che è arrivato in ritardo, a mio modo di vedere, potrebbe essere l'onorevole Salvini. Sì, per quale motivo secondo te potrebbe essere arrivato in ritardo? Ma la famoso incontro con Berlusconi e la Meloni, che hanno poi denominato la cena dell'arancino. La cena dell'arancino a Catania, proprio... è arrivato dopo, si è distinto, faceva come Nanni Moretti, mi si nota di più se vengo o se non vengo. E in effetti Salvini è andato. E in effetti era un trappolone. E in effetti era un trappolone perché non era la risposta. Bruno, grazie però. Grazie per aver chiamato. Assolutamente. E per aver ricordato il ritardo di Salvini. È un altro il ritardatario, quindi, che stiamo cercando. Vogliamo sentire anche Albino? Ma sì, dai, dalla provincia di Mantova. Vai, Albino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parlo insomma di Volta Mantovana, che è un piccolo borgo sulle colline mantovane. Sì. L'esperienza positiva di questo paese a proposito di rifiuti, sì, è questa: quelli del comune o comunque l'amministrazione si è organizzata con la pagina ufficiale di Facebook, sì, ed ha abituato i cittadini che magari girano nelle vie sterrate, nelle ciclovie. La cittadina è piena di stradine ciclabili che si possono percorrere in bicicletta, a cavallo. Ce ne sono non so quanti chilometri, credo 50 chilometri, ha abituato i cittadini a inviare la foto e a mandare la posizione di dove magari trovano dei rifiuti abbandonati. Bisognerebbe trovarci anche quello che li abbandona e denunciarlo. L'amministrazione interviene immediatamente con gli operatori del comune e li rimuove. A rimuovere quello che viene abbandonato, e ne sono certo di questa cosa, che viene abbandonato da altri utenti di altri paesi, o magari spesso sono anche camionisti che si accostano, buttano e vanno via. Sì, però sì, insomma, con questo ciclo virtuoso si è riuscito a tenere pulito. Si mandano foto anche con il colpevole presente, o è semplicemente la segnalazione di dover rimuovere? Solo? Solo se ti è capitato, no. Albino, devo dire che questa è una ottima notizia, grazie per averci chiamato, ascoltatore e controllore dei fatti, che ci segnala come in quella zona della provincia di Mantova funzioni questa pagina, certo, Facebook. A me è capitato una volta di vedere uno che lasciava dei secchi di vernice, non so se pieni di vernice o cosa, vicino a un muro della ferrovia dalle parti di casa mia, e in effetti ho pensato, faccio qualcosa, ma non sapevo cosa fare. Quindi, ci fosse stata esatto, una pagina Facebook come questa, potevo tranquillamente segnalarlo. 800 24 00 24, cerchiamo anche un personaggio della settimana ancora, che è arrivato tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Yeah. Allora, facciamoci una domanda: perché in Italia non esiste un certificato di qualità antisismica degli immobili? Ce lo domandiamo. È un'ottima domanda. Sempre. Spesso qualcuno dice forse perché si teme un calo del valore delle case, perché si scoprirebbe che molte non sono a norma antisismica. Però pensiamo a quello che è accaduto con i certificati di efficienza energetica. Quasi tutte le case sono bassa efficienza energetica, ma il mercato è andato avanti abbastanza tranquillamente. Anche perché dipende da quelli che hai intorno. E al contrario, se effettivamente con il bollino vale meno l'immobile, forse è giusto che valga di meno l'immobile se sei in una zona sismica. Noi ne vogliamo parlare con chi ci sta provando nelle Marche, sapete, colpite dal terremoto poco più di un anno fa. E con noi Francesca Ottavio, vicepresidente dell'associazione Sisma Safe. Buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno, allora, ecco, sì, voi Sisma Safe è proprio il nome del bollino, del marchio, che, sì, del certificato che voi state provando appunto a inserire nel mercato delle case. Che cosa, esatto, state provando a certificare? Proviamo a certificare la... più che altro non è certificare. Noi diamo questo marchio per far sì che a colpo d'occhio una persona, che sia qualsiasi persona, ecco, tra di noi, possa capire se un tecnico abilitato ha controllato la sicurezza dell'edificio, se è a norma o meno. Mm-hmm. Quindi non è proprio una certificazione. È lui, in questo marchio, sta a testare proprio se un tecnico iscritto a un ordine e con debita esperienza nel campo della sicurezza sismica ha controllato se l'edificio è a norma. Diciamo che... ha controllato e ha visto che è a norma, perché se ha semplicemente, esatto, controllato... Guardi, tutti dicono che le costruzioni sono a norma, ma non c'è un ente terzo che lo certifichi. È proprio questo, certo, forse il problema. È proprio questo. La signora Maria, sì, di turno, che non ha esperienza delle carte prodotte da noi ingegneri, ecco. Molto sì, che sono il 99% delle persone in realtà, non è, esatto, non è solo questa fantomatica signora Maria, esatto, ci sono anch'io assolutamente dentro. Perché diciamo che è difficile, no, certificare, perché in effetti la legge italiana non prevede una certificazione specifica unica e un bollino da poter apporre e esporre, ed è proprio quello che state in qualche modo cercando di fare voi. Ma riguarda, voglio chiedere, gli edifici vecchi o quelli nuovi? Riguardano tutti gli edifici, perché qualora un proprietario della struttura voglia fare degli interventi di miglioramento, sì, adeguatamente, naturalmente può accedere alla richiesta del bollino, come lo chiamate voi. Esatto. Ecco, ma oggi chi certifica cosa in Italia? Perché si parte proprio da questa lacuna, no? Da questa carenza, da questa mancanza di una documentazione specifica su questa tematica. Chi certifica? Certifica perché vuole, adesso c'è il nuovo decreto che ci incentiva a richiedere proprio delle sovvenzioni, degli incentivi, il Sisma Bonus, non so se, sì, lo conoscete. Certo, ne abbiamo anche parlato, sì. Si parla di classificazione sismica, di rischio sismico. Naturalmente chi vuole accedere a questi incentivi deve fare una trafila di documentazioni che l'ingegnere o l'architetto di turno deve produrre. Il salto di classe dà delle possibilità di accedere a questi incentivi, che non sono pochi, perché si tratta dell'85% delle spese. Ok, voi emettete questo bollino, ma c'è una commissione, vero? Una commissione indipendente che poi, allora, fa la valutazione. La commissione è una commissione tecnica composta da un ingegnere, un geologo e un architetto, che vengono presi a random nei vari ordini professionali locali o nazionali che abbiano un determinato curriculum attestante l'esperienza nella sicurezza sismica. E questa commissione controlla la documentazione prodotta dal tecnico che presenta la domanda di richiesta del marchio, e in base a un disciplinare tecnico che abbiamo redatto noi dell'associazione Ma quindi ha un costo, immagino, tutto questo, perché se scegliete a random non è che siano degli ingegneri vostri o dei geologi vostri? No, naturalmente l'istruttoria di a un prezzo basso, perché naturalmente deve essere accessibile. E quanto costa far controllare un immobile? Beh, dipende dalle caratteristiche del edificio. Ovvio, ma così più o meno per avere una grandezza. Una casetta di 80 metri quadri. Dai 500 ai 1500, va bene? Tantissimo, dai 500 ai 1500 euro per avere il bollino per una casa. Prego. Allora, la sicurezza non è uno scherzo, e la qualità deve essere naturalmente... No. Non c'è dubbio, è che anche 1500 euro non sono uno scherzo, quindi volevo... Esatto, ma più che altro le prove a monte costano molto naturalmente per la redazione di queste documentazioni, e naturalmente il servizio tecnico e professionale della commissione tecnica naturalmente ha un costo. Certo. E come mi diceva il mio professore all'università molto tempo fa, gratis è morto. Francesca Ottavio dell'associazione Sisma Safe, grazie per essere stata con noi. È naturalmente una piccola notizia, un tentativo, l'inizio di una strada che parte però da una mancanza, la mancanza in Italia di un certificato di qualità antisismica degli immobili. Loro ci stanno provando a loro modo, e tra l'altro c'è anche una notizia. È ancora in collegamento, Francesca? Ce l'abbiamo ancora? Sì, ti voglio chiedere, è arrivata anche a voi la lettera del commissario per la ricostruzione del centro Italia che dice ai terremotati che si torna a pagare le tasse, ahimè? Non mi hanno avvertito ancora. Non ti hanno ancora avvertito? Ebbene, è arrivata questa lettera e ha fatto arrabbiare molte altre persone coinvolte, anche perché sembra ingiusto, la ricostruzione non è ancora iniziata, spesso le persone hanno ancora degli alloggi temporanei e quindi non definitivi, 30.000 sfollati, e però si torna a pagare le tasse con la beffa che il governo ti suggerisce anche la banca dove andare a fare il mutuo per pagare gli arretrati di queste tasse. E insomma è sembrata una notizia non bellissima. Grazie Francesca Ottavio di Sisma Safe. Grazie a voi. 800 24 00 24, ascoltatori, se volete commentare anche questa notizia, oltre a cercare con noi un personaggio della settimana che è arrivato in ritardo, chiamateci. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Seems I got to have a change in scene. 'Cause every night I have the strangest dreams. Allora Carlo, io pensavo, quando ho letto questa notizia, che fosse l'ennesima cosa in inglese, move and G, e invece non è neanche italiano, è dialetto. È dialetto, è stupendo. E si chiama Moveng. Moveng. Moveng, in napoletano. Moveng è una app per spostare l'auto in doppia fila. Amici che mettete l'auto in doppia fila e amici imbottigliati, tendetevi la mano e appunto aiutatevi. Con noi l'ideatore di tutto ciò, Fabio Capurro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ovviamente dovremmo sentire la tua pronuncia, perché tra Alessio e me sicuramente abbiamo fatto un papocchio, quindi assolutamente no. Com'è? È Moveng. Molto bello. Fabio Capurro, che nonostante possa sembrare che si occupi di cose divertenti, nella vita fa l'imprenditore. È divertente. Perché Moveng, l'app per l'auto in doppia fila, uno si mette a ridere. Però è una cosa che state tentando di fare quasi seriamente. Ma come funziona? Sì, diciamo che è nata per gioco. E adesso insomma ci stiamo lavorando veramente tanto su, perché non ci aspettavamo questo successo. Come funziona? Sì. Si va sul Play Store o sull'Apple Store e si scarica l'app. Va bene. L'app chiede semplicemente l'indirizzo di posta elettronica e il tuo numero di carta. Una volta confermata la registrazione, si fa parte della community di Moveng. Basta semplicemente inserire il numero di targa della persona che ha effettuato la sosta selvaggia, sì. E dall'altra parte la persona dovrebbe ricevere, se è iscritta alla community, una notifica push una sorta di WhatsApp, però sempre in napoletano, Arostaio. Fantastico. Però bisogna che sia iscritto anche l'altro, perché altrimenti La persona digita Moving, quindi sta arrivando. Sì, comunque il presupposto è che tutti carichino questa cosa. Certo. Ma c'è una premessa, perché pochissime persone ci hanno un po' attaccato sul fatto che non è legale, incentiva la doppia fila. Noi ci mettiamo dalla parte di chi è vittima della sosta in doppia fila. Siccome è vittima? Questo lo dici per evitare future cause legali, sì. Noi ci mettiamo dalla parte. Però ascolta, effettivamente è la prima domanda che viene in mente, è geniale l'operazione, però la prima cosa che viene in mente è effettivamente che rischia di incentivare, che io la metto in seconda, tanto in terza fila, Moving. Tanto Moving, e se hai bisogno. D'altro canto è anche vero che sul piccolo può anche essere sensato, che se uno deve per un istante mettergli la macchina, se comunque nel momento in cui io chiamo viene subito spostato, ci sta. Quindi la cosa che ci chiediamo è qual è lo scopo di questa app. Lo scopo, io vivo a Napoli, lo dico sempre, a volte anche un genitore che va a prendere il proprio bambino a scuola è obbligato a mettere una macchina in seconda fila. È proprio obbligato. E quindi ci sono piccole cose. Gli autisti della NM di Napoli ci hanno ringraziato, perché loro sono spesso vittime di questa sosta selvaggia, non riescono a passare con l'autobus. Certo. Quanti iscritti avete, per capire? Allora, perché qua può funzionare solo se superate una soglia di un bel po' di iscritti, altrimenti allora, non funziona. Attualmente collegato al set 2547 utenti online. Vi posso dare un consiglio? Se fate pagare 5 centesimi o quello che volete voi per ognuna di queste operazioni, poi questi soldi, invece che diventare ricchi, con questi soldi fate costruire dei parcheggi per Napoli, per esempio. Così forse. Ah, il fondo, capito? Sì. Cioè l'iniziativa anche a sfondo benefico, sì, in qualche modo. Voglio sottolineare che molti download sono stati fatti a Milano, Bologna, Roma. Dove, insomma, io pensavo che fosse. Cosa vorresti insinuare? Ce l'abbiamo anche noi, ci mancherebbe altro. Il problema delle macchine in seconda fila non è solo vostro. No, io pensavo, devo dire la verità, da napoletano, pensavo che il problema fosse fondamentalmente napoletano, invece poi ho scoperto. No, guarda, vai a Roma, vieni a Milano, ci mancherebbe altro, e vedrai che anche qui abbiamo il problema delle macchine in seconda fila. In bocca al lupo, Moving, in bocca al lupo, Fabio Capurro, staremo a vedere. E chissà se ci saranno tantissimi download, allora potrà diventare una cosa anche per dare le multe, forse. E così la chiudiamo. Sì, entrano anche i vigili, così sanno esattamente dove sono, esatto, le auto. Arrivano prima e multano. Esatto. Questo è un brutto suggerimento che ti abbiamo dato. Maria da Bari, per chiudere questa parte, vai Maria. Buongiorno, buongiorno. Intanto, complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Niente, io voglio segnalare nella zona della piana di Pestumo, vicino al fiume Sele, al fiume Calore, una zona fertilissima, vanno a scaricare rifiuti anche di giorno in terreni che secondo loro sono abbandonati. Quindi, cioè ascoltatrice, contro l'ora dei fatti, dove esattamente? È nella zona della piana del Sele, verso la Ionta, località Ionta, vicino Pestum, da quelle località bellissime. Ah, vicino come addirittura mai, Pestum. Come mai non c'è una sorveglianza? Cioè, io pensavo che la Campania, dopo tutto quello che succede, fosse un pochino più attenzionata. Cioè, anche con ma tu cosa hai visto esattamente? Che tipo di. Cosa ho visto? Ho visto che ho un terreno là e mi hanno detto di non lasciarlo abbandonato perché vanno a scaricare rifiuti, tipo pneumatici, altre cose. Va bene, Maria, dobbiamo chiudere. Grazie, dobbiamo chiudere. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, ben ritrovati di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Questa è Si può fare. E allora vi voglio, cari ascoltatori, ingaggiare oggi, vi vogliamo ingaggiare come controllori dei fatti su una notizia di cui parleremo tra poco. Il rapporto ISPRA sui rifiuti, aumenta il numero di rifiuti prodotto a livello nazionale, ma si dice è il segno dell'economia che torna a girare. Vogliamo prenderla come una buona notizia? Benissimo, però aumenta anche il fenomeno dei rifiuti abbandonati, questo no. E allora vi chiediamo di fare questo fact checking per noi. Raccontateci. Esatto, raccontateci. Dove accade? Raccontateci delle foto. Mandateci magari delle foto. Aiutateci a sconfiggere questa cosa vigliacca dei rifiuti abbandonati in mezzo alla strada. 800 24 00 24. Poi cerchiamo un personaggio. Sì, vai. Un personaggio della settimana. Che è arrivato tardi. E invece dall'Inghilterra ci arriva una notizia che potrebbe essere una buona notizia, per altri potrebbe sembrare non una buona notizia. È in arrivo una rivoluzione nelle pratiche di divorzio in Gran Bretagna. Ovvero, basterà un click. Ma cosa sto dicendo? Un click per porre fine a un matrimonio. Con qualche appunto con un colpo di tastiera o con un colpo di mouse, semplicemente compilando un modulo online. Ovviamente stiamo parlando solamente dei divorzi consensuali, perché nel momento che ci dovesse essere qualunque tipo di problema interverranno i tribunali. Con questa piccola pratica, ovvero divorzi consensuali semplicemente con un click online, si risparmieranno 250 milioni di sterline per i tribunali del Regno e in realtà avranno anche il tempo per occuparsi di altre cose. Di altre cose che sono più importanti, sicuramente. Poi il divorzio non è mai una bella cosa, però insomma, se ci devi proprio passare in mezzo, allora quasi quasi meglio farlo rapidamente. Sì, in realtà quello che dicevo, che può essere buona o non buona, perché qualcuno giustamente dice che il fatto che i tempi per il divorzio siano anche lunghi e complicati è anche che dovrebbe sottolineare la gravità. Che ci ripensi. Esatto, la gravità comunque del questa è una possibilità, vediamo. Esatto. Allora, io invece ho un'altra notizia che riguarda, tra l'altro ci siamo anche in mezzo anche noi a Ecomondo, la fiera delle tecnologie verdi, delle tecnologie green a Rimini dal 7 al 10 novembre. C'è una bella iniziativa presentata dalla Eurven, un'azienda di cui abbiamo parlato anche noi, un'azienda veneta attiva nella questione della raccolta differenziata, il contenitore per gli abiti, vogliamo chiamarlo così, 2.0, si chiama Clothes for Love, ancora una volta in inglese, ma insomma funziona così praticamente. Non soltanto c'è un sistema di inserimento dei vestiti che ha un'apertura anti-intrusione, che quindi evita la questione che si possa andare a rubare, che purtroppo capita, i vestiti donati per beneficenza, ma è incentivante, per cui c'è un touchscreen, uno schermo dove tu puoi sceglierti un negozio che partecipa a questa iniziativa, hai dei punti, hai un piccolo buono sconto in base a quanti vestiti hai donato per andare a fare un acquisto solidale in un altro negozio con un piccolo sconto. Bravi. Tutto questo a Ecomondo, dove ci sarà anche Radio 24. 800 il mio armadio 24 00 24. Cerchiamo un personaggio della settimana che è arrivato in ritardo. Andiamo con Mauro, che ci chiama da Alessandria. Buongiorno. Da Alessandria, ma da una cantina di Alessandria, sentiamo. Sì, beh, è una specie di casale. Ecco. Ah. Dici tutto, Mauro, dici tutto. Ti sentiamo malissimo. Sì, mi dispiace. Secondo me la pioggia mi è arrivata finalmente questa settimana, è attesa da tutta Italia. Quindi ho la copertura. Bravo. Ce l'hai fatta. Siccome non volevamo lasciarti parlare troppo a lungo del tempo, abbiamo fatto partire l'applauso e la risposta è esatta. È il maltempo, la pioggia che è tanto attesa ed è arrivata. Anzi, possiamo dire il maltempo dell'autunno, che di solito arriva un po' prima del 4 di novembre o 5 di novembre, ovvero oggi. Era attesa e è anche utile per la campagna, anche per l'aria. Grazie Mauro, ti porti a casa i biglietti della mostra Egitto al MUDEC di Milano. A questo punto dobbiamo bissare il personaggio, sì. Rilanciamo personaggio ancora bis. Un sacco di abbiamo tempo. Ancora un bel po' di tempo, 800 24 00 24. Carlo, vai tu con l'indizio del personaggio bis di questa settimana. Assolutamente sì. Il nostro nuovo personaggio, il nostro secondo personaggio è instancabile. Quindi pensate, è una notizia degli ultimi 7 giorni e a qualcuno che si è dimostrato instancabile. Andiamo con Fernando, che ci chiama da Viterbo. Benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Gabardini, è un lapsus freudiano il crick sui divorzi, eh? La ragazzi, ho sentito Gabardini così, avevo paurissima, pensavo che mi sgridasse, avevo molta paura. È vero, è un lapsus freudiano il crick. Ma sì, hai chiamato allora, per questo, Fernando? No, dai. No, sì. Ho chiamato perché in Viterbo, purtroppo, sì, il comune non ha previsto la raccolta differenziata delle lampadine a basso consumo e dei neon, per cui spesso e volentieri, si sa dove buttarli, immagino. No, li buttano nella campana del vetro. Ah, e non si deve. E non si deve fare. E non si deve fare. E purtroppo questa è una deficienza del comune, che non riesca a capire perché non lo fa fare nella raccolta settimanale, perché cioè, poi uno si dovrebbe tenere in casa un mucchio di queste cose, poi andare all'isola ecologica, alla discarica o all'isola ecologica e consegnare. Io sono il più ignorante, perché le lampadine non vanno nel vetro, sì, vanno si differenziano da loro. Però, cioè un luogo apposito solo, esatto, per le lampadine. Esatto. Ma è così anche a Milano, Fernando, te lo devo dire, non c'è raccolta neanche da noi, porta a porta, delle lampadine. Devi andare, in effetti, o forse in alcuni negozi adesso cominciano ad avere degli scatoloni. I negozi di lampadine diretto, certo, domestici, eccetera. Ce n'è uno proprio vicino a casa mia, che da poco ha messo lo scatolone. Finalmente non devi andare più alla discarica ogni volta che hai una lampadina. 800 24 00 24. Torniamo tra pochissimo, parleremo del rapporto ISPA sui rifiuti e poi cerchiamo a questo punto un nuovo personaggio della settimana, che è instancabile. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ascoltatrice ci scrive e ci manda una foto. Via Villarbasse a Tragliatella è un continuo scaricare. Ho raccolto busta con indirizzo scritto. Che fare? Non lo so che fare. Prova tu stessa a scrivere a qualcuno, a chiamare al comune. Intanto grazie per averci fatto questa segnalazione. Vi chiediamo, ascoltatori, di erigervi a controllori dei fatti questa mattina. Aiutateci a controllare. Il fatto è questo: i rifiuti abbandonati. Ne parliamo. E poi in un giorno di pioggia lo stiamo chiedendo. Siamo veramente cattivi. Nel senso che uscire sotto la pioggia per fare una foto per una lavatrice abbandonata. Però questo vi stiamo chiedendo. E voi con tutto il vostro amore lo state facendo. Ne parliamo con Enzo Favoino, coordinatore del Comitato Scientifico Zero Rifiuti Europe e esperto ambientale della Scuola Agraria del Parco di Monza. Enzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato. E anche con il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, perfetto. Buongiorno. Che buongiorno. Ha cominciato a smultazzare con tanto di foto esposte in giro per il suo comune. Chi? Proprio quelli che fanno questa cosa vigliacca e terribile di abbandonare i rifiuti. Anche qui inventando un bellissimo nome, sì, però. Perché ce lo facciamo dire dal sindaco. Uè, Lurda Chios. E qui la fantasia il vince. Il perfetto pugliese è uno straordinario. Certo. Quante volte ha fatto, sindaco, intanto? Abbiamo più di 100 accertamenti. Ma spieghiamo però. Come questo Lurdacchion, che in realtà sono delle foto, che è quello che stiamo chiedendo anche ai nostri ascoltatori adesso, ma il sindaco l'ha fatto molto prima, chiedendo delle foto che ritraggano anche il colpevole, giusto? Anche il colpevole, perché la macchina con cui di solito si va a scaricare la targhetta da, certo, cui si può dedurre. Dopodiché vengono pubblicati una sorta di pubblica gogna in cui vengono pubblicate queste foto. Sì. Con questo Lurdacchion scritto

Ecco, qual cioè? È il fatto? Che ha sostituito Fabrizio Frizzi in questo momento di sua non disponibilità. Che è stato poco bene, anzi sì, sì certo. Fabrizio Frizzi naturalmente. In effetti Carlo Conti, beh sì, però no, non... La notizia c'è, è sì, il fatto sì. che abbia sostituito Frizzi. Lei dice instancabile proprio perché instancabile si è messo a disposizione. È, assolutamente, ma no, non era lui. Non era lui. Grazie mille. Io andrei forse con un altro indizietto a questo punto. Vai, è giusto, è domenica. Aiutiamo, sì, però se lo trovo, se lo trovo. Ah, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Allora, è instancabile anche. Ah, questo è un indizio, è bello, questo ha commosso il mondo. Questo è un indizio che è un aiuto proprio grandissimo. Secondo me, anche se mancano pochi minuti, ce la fate. 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, molti ascoltatori intanto scrivono: ma come si fa ad abbandonare i rifiuti che poi finiscono in mare o in campagna? È una cosa pazzesca, eccetera, eccetera. Certo, perché la maggior parte delle persone normali non lo fanno. Credo la maggior parte, direi. Sì, sì, beh, soprattutto in certe regioni, possiamo dirlo, perché forse è una cosa che accade soprattutto in certe zone d'Italia. Non so perché, ma è così. Abbiamo cercato di indagare anche il motivo per cui si buttino i rifiuti in campagna, visto che oggi ci sono isole ecologiche ovunque. C'è chi dice perché sono persone che evadono la tassa, la Tari. In realtà quando vai all'isola ecologica non ti chiedono quasi mai neanche la ricevuta della tassa, cioè semplicemente devi essere residente e finisce lì. 800 24 0024. È spesso veramente noncuranza il fatto di pensare che luoghi o campi pubblici o non tuoi tu possa farci quello che vuoi. In realtà questa, la terra è di tutti, quindi è proprio un ragionamento folle. Allora, la prossima storia è un si può fare nel mondo e viene dall'Olanda, da Amsterdam, la capitale olandese, meta turistica di quelle tra le prime forse 10 nel mondo, non lo so, insomma una città proprio presa di mira alla grande dal turismo, prova per una volta a gestire anziché subire questi flussi turistici. Ed è il sogno in Italia, per esempio, di Venezia, Roma, Cinque Terre, Liguria, tanti altri posti super super visitati che ci stanno provando. A volte si parla di una tassa, un numero chiuso, eccetera eccetera. Qua ad Amsterdam niente tassa, niente, ma soprattutto numero chiuso. Il concetto è: ma perché devo non farti venire? Tutti sono benvenuti. Forse c'è un'idea migliore, ovvero facciamoli andare in dei posti, esatto, dove ci vanno di meno. Basta che non vadano proprio tutti nella stessa piazza, che ce la facciamo nello stesso momento. Ed è questa insomma l'idea che però cerchiamo di capire come stanno cercando di realizzare da quelle parti, insieme a Lara Lago. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Lara, lei è una collega, una giornalista italiana che vive ad Amsterdam. Lavori per chi lavori, Laura? Lara, raccontacelo. Lavoro per una casa di produzione video, quindi praticamente faccio video da 2 anni che sono qui. Ok, benissimo. Si chiama Zoom in TV. Perfetto. Senti, come tu ti sei un po' documentata? Intanto è vero che Amsterdam è presa di mira dal turismo e a volte con anche effetti magari diciamo negativi di concentrazione di tanta gente nei soliti punti, o sono solo un po' le solite lamentele degli anziani che non vogliono magari il rumore sotto casa? No, assolutamente vero, è verissimo, c'è un incremento assolutamente del turismo negli ultimi 2 anni, tanto che i turisti vengono qui perché scelgono Amsterdam perché è una città molto libera, quindi sì, la droga nei coffee shop, la marijuana, il red light district per le signorine in vetrina, quindi è una città molto, cioè, ce n'è mira, per tutti i gusti, per come l'hai messaggiato tu. Beh, chi al liceo non ha fatto il viaggio ad Amsterdam, il più classico, giustamente, certo, anche per i coffee shop. E poi comunque l'Olanda è un paese di grande fascino. E poi è la Venezia del Nord, Amsterdam è anche una città stupenda. Nord, certo. Appena all'inizio, diciamo, da ragazzino ci vai per farti le canne, poi a un certo punto capisci che c'è Van Gogh, che c'è il museo Munch, che è un posto incredibile, e quindi è giusto, le prime volte magari no, ma poi inizi a vedere i musei, giusto? Certo, i musei vengono presi proprio di mira con file lunghissime che possono durare fino a 4 ore. Vero. I grandi esempi sono Van Gogh e la casa di Anna Frank. Ecco. Primi e sono proprio musei presi talmente di mira, un po' come il Museo d'Orsay a Parigi o i Vaticani, Musei Vaticani, ad esempio a Roma o altre cose. Ecco, come le autorità locali, insomma l'amministrazione di Amsterdam, sta cercando di convogliare questi flussi. Abbiamo letto anche con delle app, con delle nuove tecnologie, con degli avvisi, con una card. Esatto, si chiama Amsterdam City Card ed è una carta che si può acquistare, che dura un tot di ore, va dalle 24 alle 96 ore, e che comprende un po' tutti gli ingressi ai diversi musei, oltre ai trasporti pubblici. Ma la cosa intelligente che stanno facendo è che cercano di spostare i flussi. Quindi se c'è questa fila di 4 ore, come dicevamo prima, al museo di Van Gogh, nell'app compare, c'è anche un'altra app che si chiama Discover the City, compare, c'è questa fila, non andare, le altre possibilità dove ti trovi, cioè ti geolocalizza. Ti viene un allarme rosso, fermo, esatto. Non andare al museo perché è inutile, 4 ore di coda, non ci andare. Anche perché poi spesso succede che tu magari sei da un'altra parte della città, organizzi di andare al museo, perdi un po' di tempo per trasferirti lì, anche se Amsterdam in questo caso è piccola, ma pensiamo in città grandi, perdi magari mezz'ora per arrivi lì e poi il museo c'è la coda, allora hai buttato via del tempo. Invece loro ti avvisano e cercano soprattutto di orientarti da un'altra parte, e spesso la cosa intelligente, secondo me la più intelligente che stanno facendo, cercano di proporti degli itinerari alternativi dove tu di tuo non ci andresti mai. Per esempio? Sì, un po' non ci andresti mai, un po' però rispettano anche i tuoi gusti, perché sta tutto lì, cioè il fatto di analizzare tutti i dati è il fatto anche di incrociare i tuoi interessi, giusto? Fanno una psicoterapia. Certo. Perché se no, se ti mandano in un posto dove tu non ci andresti, nel senso che proprio non ci vuoi andare, non ci vai. Invece è che ti invogliano perché dici, vabbè, ti interessa Van Gogh, incrociano tutti i dati. Sì, un po' anche grazie ai social media, quindi certo. Analizzano proprio i tuoi like, ti fanno un percorso personalizzato. Da un'altra parte ti fanno scoprire delle cose che altrimenti tu nemmeno sai che ci sono. Ecco, faccio qualche esempio. C'è questo paesino fuori Amsterdam che si chiama Zaanse-Schans, che è pieno di mulini, è una zona anche quella turistica, però è fuori città, devi prendere un bus, devi andare a nord, ed è un posto molto carino, molto apprezzato spesso dai turisti, che è compreso appunto in questa city card. Poi ci sono anche proposte molto più bizzarre, ad esempio il museo funerario, con una serie di casse da morto in esposizione, che appunto non credo sia una delle attrazioni che sceglieresti, però appunto è compreso, sicuramente ha meno fila rispetto ai musei più grandi, eccetera, è tutto compreso nella card, quindi è una cosa che magari un tipo di programma turistico di questo modo ti invita appunto a disseminare l'affluenza. Certo. Senti, ma Lara, le casse da morto valgono la pena però? Io personalmente non ci sono mai stata. Ecco. La risposta di Lara Lago è no. Però volevo capire. De gustibus. Senti, ma tutto questo però prevede un, come dire, utilizzo massiccio degli smartphone, delle nuove tecnologie. Ora io immagino il turismo spesso è anche un po' agevole, vogliamo dirla così. Cioè, per esempio, penso agli americani, ai giapponesi che vengono in Italia, sicuramente saranno tutti molto tecnologici. Ma quello che ti voglio chiedere è: l'Olanda, gli olandesi è un popolo delle nuove tecnologie, quindi questa cosa nasce anche per questo, cioè farà presa, tu credi, anche poi sui turisti naturalmente. Sì, ma sono proprio grandi fan della tecnologia, anche avanti per certi aspetti su tante cose, per esempio, una stupidaggine, però la dice lunga, i biglietti dei tram e dei bus si abiliteranno in entrata ed in uscita. Tutto perché loro vogliono avere le statistiche di dove vanno le persone. Anche a Milano, io, ad esempio, da un annetto anche a Milano. In uscita, ecco, certo. Non ci sono più. Sì, però sì. È interessante. Per uscire dalla metropolitana devi ritirare. Dalla metropolitana, certo. Ma vabbè, ovvio. No, non è l'uscire dal mezzo, che quello, altrimenti se non ho il biglietto non riesco ad uscire. È proprio vedere, tracciare quanti chilometri fanno su mezzi le persone. Sì, sì. E questo vale appunto anche se ci sono gli abbonamenti e tutto. Quindi, oltre ad essere una società molto tecnologica, questo è solo un piccolo esempio, ma ce ne sarebbero tantissimi altri, è una città molto tecnologica, ma poi c'è il wifi praticamente ovunque. Mm-hmm. E qui sono avvantaggiati anche dalle dimensioni un pochino più ridotte rispetto alle altre capitali, perché naturalmente Amsterdam è grandissima, però la gente passeggia con il cellulare costantemente in mano, lo smartphone è sempre presente, è proprio uno strumento di turismo. E insomma, quindi questo è dalla città, diciamo, del turismo, ma amante dal paese, anche amante delle nuove tecnologie, arriva questa idea. Ha un nome, ce lo ricordi, questa tecnologia, questa la card, come si chiama? La card si chiama, chi l'ha creata è iAmsterdam, che è il centro del turismo di Amsterdam, si chiama City Card. Beh, molto semplice. E quindi da qua arriva questa idea abbastanza semplice, su cui però si può lavorare. Noi ringraziamo Lara Lago, una giornalista italiana che vive ad Amsterdam, per averci fatto questo racconto. Grazie mille. Poi grazie, ti ricordi che avevamo parlato di come le Cinque Terre stessero provando a fare una app simile, però poi si era scoperto durante insomma nei giorni successivi che l'app non funzionava perché non era in tempo reale, quindi no, non va bene. Cioè, se non sei in tempo reale non sei un'app, insomma, se devi aspettare il cartaceo. Mi sa proprio di sì. 800 24 00 24, siamo qua, cerchiamo ancora un personaggio della settimana. Un secondo personaggio, perché il primo l'abbiamo già segnato e hanno già vinto il premio. Questo personaggio qua ha commosso il mondo. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Senti qua come sono potenti i Daft Punk. Questa è Carmelo La Rucella in regia. Allora, pensavo mi è che piaciuto, suonasse. Carlo, mi è piaciuto l'orgoglio, lo scatto d'orgoglio che hai avuto con l'intervista con Lara Lago quando gli hai detto: ma anche noi a Milano abbiamo che tracciamo tutti sulla metropolitana. Però loro fanno anche sugli autobus, quindi sono più precisi. Ma noi non lo timbriamo neanche all'ingresso sugli autobus. No, nel senso che è molto difficile sull'autobus, deve essere veramente, devi avere il tornello davanti alla porta l'uscita, se no chi è che torna dentro dice: no, scusami, è che devo lasciare i miei big data all'amministrazione comunale. Che gli olandesi sono simpatici, ma sono anche un po' mezzi tedeschi, non diglielo perché si incavolano, però è così. E va bene, andiamo con Francesco che ci chiama da Roma. Francesco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Sono un pensionato autista. Sì. E raccolgo tutti i giorni le batterie, faccio un chilometro a piedi per andare al supermercato a fare la spesa. Sì. E di fronte c'è un ferramenta che c'ha il contenitore e io mi metto quei guanti che prendo al supermercato per la frutta. Ah, quelli di plastica trasparente? Sì. E raccolgo le batterie con quello perché alcune perdono liquido. Scusa, ma dov'è il supermercato? Perché ci sono tutte queste batterie sulla strada di casa tua al supermercato? Questa è la domanda. Cioè, in un chilometro da casa sua al supermercato ci sono ogni giorno parecchie persone che buttano batterie? Pensi, anche una ieri l'ho trovata grossa che già buttava il liquido. Ah, ma stiamo parlando di batterie, non della batteria dell'automobile, no, suppongo. No, delle radioline. Certo. E quelle d'onda. Le stilo, le mini stilo, quelle. Sì, le mini stilo, le... Ma lei fa un servizio straordinario, vogliamo ringraziarla, come facciamo? È l'unico modo per incontrarla, tra l'altro, è venire lì e buttare delle pile. Io ho calcolato... Sì? Che sono in pensione dal 1982, se le metto in fila arrivo fino a Marostica. Ma Marostica? Scusa, ma come in pensione dall'82? No, vabbè, ma quanti anni ha, se posso chiedere? E adesso il 16 novembre 74 anni. Ma tutti i giorni fa la stessa strada o più tutti o meno? Tutti i giorni, andate e ritorno. E ha cominciato dall'82 a raccogliere batterie? Perché si sono fatti i cani e io dovevo camminare e portarli fuori. Ma lei è un collezionista, in realtà, dica la verità, di batterie, perché Francesco. Come dice? No, dico, è quasi una cosa da collezionisti tutto questo, questo... Faccio il pensionato ecologico. Ecologico, bravissimo. Ma però è andato in pensione a bravissimo. 40 anni, scusi. Sì, da bambino, da ragazzetto, ho lavorato a un negozio che mi hanno messo le marchette da apprendista, da aiuto commesso e commesso. Sono andato a far militare, non mi hanno licenziato, sono ritornato. È un baby pensionato. Erano altri anni, erano altri anni. Sono stato l'autista al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Vabbè, chissà quante storie ce l'abbiamo da raccontare. Grazie Francesco, complimenti per questa sua vocazione ecologica. Grazie, abbiamo altri ascoltatori in linea, anche perché proviamo a indovinare un altro personaggio, il secondo oggi, siamo molto generosi. Gabriella da Roma, sempre da Roma. Gabriella? Pronto? Eccola, vai. Buongiorno, buongiorno, sono Gabriella. Sì. Li volevo dire, secondo me è quel gran cervello di Steve Jobs, quello dell'Apple. Si è inventato un telefonino particolare ultimamente che costa tantissimo, stanno facendo la fila per comprarlo. Quello che si chiama iPhone. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Però Steve Jobs, qual è la notizia degli ultimi giorni? L'uscita dell'iPhone, lei dice? Sì, appunto, è uscito questo telefono in America che saranno alla fila, per cui pensano che già a Natale sarà difficile averlo perché costa più di 1000 euro. No, sì. L'Apple c'è molto chiaro. Ci chiede... una notizia che raccolta al volo. Ci chiedevamo come mai Steve Jobs, che comunque postumo, ci ha lasciato da 6 anni, e quindi ci chiedevamo come mai davamo a lui il merito anche dell'iPhone 10. Comunque non era questo il personaggio, ma la ringraziamo molto per aver chiamato. Un personaggio postumo, quello di Gabriella. Andrea da Ancona. Sì, buongiorno. Buongiorno, vai. Allora, la notizia potrebbe essere relativa al cane Laika che i sovietici misero sullo Sputnik. Che non è proprio una notizia di primissimo pelo. No, però c'è stato l'anniversario. Giusto. Gli anniversari regalano sempre grandi ricorrenze e possibilità per dei personaggi della settimana di Si può fare la domenica. Senti che giro che ho fatto. Però non era questo, in effetti. Domenico, grazie. Grazie. Proviamo con... No, Andrea, proviamo con Domenico, che chiama da Canosa, di Puglia. Sì. Vai. Sì, sono Domenico. Sì, il personaggio, secondo me, è... quella signora di 100 anni inglese che accudisce ancora il figlio. Che accudisce, che è andata in casa di riposo col figlio. Sì, accudisce il figlio, sì. Noi sapevamo di 98, stiamo parlando della stessa persona o ci sono due notizie? No, siamo con te, è una notizia bellissima, una mamma di 98 anni che decide di andare vivere con il proprio figlio ottantenne che già viveva in casa di riposo. Erano stati insieme tutta la vita e lei non si è tirata indietro neanche in questo momento più delicato. Grazie Domenico, ti porti a casa anche tu i biglietti della mostra Egitto, e oggi ne abbiamo regalati due, quattro. Ma che bello, è tutto, chiudiamo. Ci sentiamo sabato prossimo con Si può fare, un programma che realizziamo insieme a voi cari ascoltatori, insieme ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, oggi Laura Faggini in assistenza in diretta, Carmelo Lauricella in regia. Ci risentiamo sabato prossimo, ciao da Alessio Maurizio e ciao da Carlo Gabardini.